tornato ad esplodere dalle troppe dimore di Dio, sulle vostre candele accese, su preghiere già vecchie 2000 anni fa. Sono stufo di questo odore e di questo silenzio. Smettete di santificare ogni papa assassino e succhiare il potere. Usurai affamati di oro, zecchino, vampiri in un piatto di vene. Le mie mani inchiodate sono stanche. Rimuovetemi dalle vostre stanze e dalle TV, se no scendo giù. Come Socrate occulterò alla storia la mia carica sessuale e il mio sguardo feroce d'un padre che è pieno di boria, sta sempre nel cielo senza farsi trovare. Non parlate di scienza e coi vostri proseliti usate un po' più di prudenza. Ci sono troppi pazzi in giro pronti a impugnare la spada o infilare il cilicio in un'altra crociata. I miei piedi legati fanno male, rimuovetemi dalle stanze d'ospedale e dalle TV, se no scendo giù. Testa continua a sanguinare, il mio sangue non è il vino che mi può salvare. Thank you.